Abbiamo purtroppo trovato una situazione preoccupante dopo 3 settimane ormai dall'inizio dei trasferimenti che sono stati scaglionati in qualche modo a piccoli gruppi. A distanza di 3 settimane ancora le attività di fatto non sono partite, non hanno ripreso i percorsi scolastici e anche gli spazi sono assolutamente inadeguati perché, come sappiamo, questa nuova sezione è stata ricavata dalla sezione massima sicurezza della Tozza, quindi i detenuti adulti della massima sicurezza sono stati trasferiti e quindi gli spazi sono di fatto molto, molto stretti, le celle, le stanze, come si dovrebbero chiamare, sono piccole, lo spazio esterno per la cosiddetta ora d'aria in qualche modo è molto, molto piccolo, è un muro di cemento armato molto, molto alto, uno spazio molto piccolo e i ragazzi hanno lamentato soprattutto la scarsità e la pessima qualità del cibo, una cosa che ci ha molto, molto stupito perché alcune cose ce l'aspettavamo, però che dei ragazzi avessero letteralmente fame, questo devo dire che non me lo aspettavo. E al contrario, ovviamente, il carcere degli adulti, loro non possono cucinarsi da soli. Non c'è un'alternativa in questo momento al catering che viene offerto dall'appalto dell'istituto. Quindi davvero siamo molto preoccupati e c'era molta frustrazione. Molta rabbia e anche il pentimento per coloro che hanno scelto, tra virgolette, volontariamente di essere trasferiti, perché alcuni sono stati trasferiti senza, insomma, alcuna possibilità di scelta, mentre altri sono stati di fatto raggirati, stando a quello che i ragazzi raccontano, perché è stato raccontato loro che sarebbero andati in un nuovo istituto con spazi più belli, con più attività, con più progetti, e invece sono finiti in una sezione della Dozza in condizioni assolutamente peggiorative rispetto agli istituti di provenienza, che non è che non abbiano dei problemi, evidentemente, pensiamo anche al Pratello, però in confronto davvero non c'è paragone, il paragone è proprio impietuoso. Sui social tu hai raccontato a proposito di alimentazione di un ragazzo che in una settimana ha perso 5 kg. Il primo che abbiamo proprio incontrato entrando nella sezione, questo ragazzo albanese raccontava che in 2 settimane ha perso 5 kg per via appunto della scarsa alimentazione e della qualità del cibo. Era appena stato in infermeria, aveva ancora il cotton fioc sul braccio per le punture, le visite che aveva fatto perché insomma aveva problemi di vomito e situazioni del genere. È stata una lamentela molto, molto forte quella di aver fame, di non riuscire a mangiare quel poco che gli viene offerto. Quindi davvero una situazione drammatica e assolutamente inadeguata per dei ragazzi. Tutte le preoccupazioni che avevamo purtroppo si sono verificate, forse anche peggio. E considerando che adesso sono 18 i detenuti, i giovani adulti in questa sezione, ma possono arrivare, lo sappiamo, fino a 70, in un trasferimento che da prime circolari doveva essere di 3 mesi, poi è diventato rinnovabile, poi è diventato fino alla fine dell'anno, e la stessa direzione del carcere minorile e del carcere della Dozza che abbiamo incontrato proprio all'inizio della visita, ma loro stessi non credono affatto nella temporaneità, come dire, la mettono in dubbio nella misura in cui ci si rende conto appunto che 3 mesi sicuramente non saranno. Quindi davvero è da ogni lato la si guardi, questa operazione è assolutamente sbagliata, oltre che, io credo, disumana. Parlato anche di un passo indietro nella cultura carceraria. Sì, che già chiamarla cultura carceraria, forse assolutamente. Io credo che già ovviamente il pensiero critico nei confronti dell'istituzione carceraria non sia egemone in qualche modo, ecco, nel nostro paese. C'è più invece una cultura più populista, giustizialista, manettara, oserei dire, guarda caso, però sempre nei confronti dei più deboli, perché poi invece si è garantisti nei confronti della politica, dei potenti, quando appunto ci sono dei reati. Questa è purtroppo una cultura che noi abbiamo, ma questa operazione, ad esempio, rispetto al fatto che l'istituto in qualche modo dei giovani adulti, questa separazione che c'è, no, tra i minorenni e la piena età adulta, questa fascia d'età, in qualche modo è stata ed è un istituto molto importante, perché perché pone, come dire, anche un elemento di transizione, di differenziazione tra chi compie reati nella maggiore età e chi l'ha compiuti nella minore età e poi si trova a diventare maggiorenne in uno stato detentivo. Oggi siamo in una situazione dove, con il decreto Caivano, che ne dica il governo, che costantemente smentisce quella che invece è la realtà, che tutti gli esperti stanno sostenendo, il decreto Caivano sta riempendo le carceri minorili, che sono sovraffollate, e questa operazione della Dozza non risolve assolutamente il tema del sovraffollamento degli istituti penali minorili. È solo davvero una logica crudele e punitiva. Il decreto Caivano, che ha aumentato la possibilità di carcerazione preventiva senza condanna dei minori, è assolutamente una delle concause, come minimo, di questa situazione.